Friuli nel mondo, 86esima trasmissione dedicata agli emigrati. I nostri scrittori. Vogliamo oggi, cari amici lontani, presentarvi alcune composizioni di tre validissimi scrittori friulani del gruppo di Risultive. Otmar Muzzolini, detto Meni Uccel, Riedo Puppo e Giuseppe Marchetti. Tre personalità, tre temperamenti, tre stili. Meni Uccel è una verve spontanea e mordente che dà stile alle composizioni di perfetta architettura, nelle quali la satira spietata è solo la caritatevole contrapposizione mimetica d'una sincera pietà. Riedo Puppo, anticonformista per vocazione atavica, rivela la personalità del suo mondo con esattezza e essenzialità in narrazioni pervase da humor, all'istante l'effetto comico, poi commovente. Infine, Giuseppe Marchetti, alla somma bravura linguistica, congiunge la critica saggia in un dettato umoristico di rassegnata ma polemica bonarietà. Aviolis, scileve Aviolis, tutte la riviere e iere di sorili pai rivai ne sagre te floride primevere. Ator ator parbanti se vignai ne bave leve tivide elisere amarida rosutis e pidai e fueis e frosa fa trema d'amor e asparnicia parduttum umudo. E vie par ogni sterpe d'ogni bande milante ucei e levin acirisci, milante dal frastiar di ogni chiarande e levin vivarosa divertisci, milante a presentane lor domande tal lor lengacci, lor amor adisci. Nomino doi, l'isgolis e sungolis, o levin veramente il nome Aviolis. No. I dici, i sì no, signor? Mi dici di no. Mangino un policiotto? Mi dici di no. Chiolino un panettone? Mi dici di no. Oppure dici, c'è di tu, sole sere, come ho chiarito la biele primavera, sole singa fa un girla che tu sas. Mi chiale, c'è discorso che tu mi fas, o invece sulla sente tal sorelli, ragionamenti vieli, oppure fai ne visite a mio pari, ne visite a me mari, orce ti ho le snigolarine rosse, negolarine nere, e so picchias culì ne stampe gnove, culì ne stampe viere, e so compras un vas di conolun, parnoie di sclopons, e se sul pat che il chioso l'insuage, e chi chial dir se le sinte ferage, e che l'armar, che schiacci sta al seglar, che il canapè, che banchie, che il comò. Mi rido come ad un matto e dici di no. Così par mil condisi sempre no. Da state in primavera sempre no. Par tantis coin proponi, coin prospeti, par tantis coin dideti sempre no. Di peso par canieris sempre no. Di botto ragionadis sempre no. Se in presenza in cento nome io, la sua parole no. La sua risposta no. La sua sentenza no. No di mattina e sempre, no di sere, no vie pegnot, no saldo, mai un se, potevi ed intunatri anche in che dè. Criure. Jesus c'è freta tor, pescumisuris, peschene, tai genui e tescanelis malsint come guselis e tai pis. E se così fodrà da chiafa pis, e se che i pis mai ai tai ciuculons, li sdiambis tai chialciuns, e che tal stomi, denandi saltafur in tan rigor, mi so isvedato un bossul di licor, di che l'instesso sgriso, c'è ritir. Mi capite un pensier, se io, con tutta pat come cosoi, mal sent che tutto tremi sui genoi, la passarute allora che è nu amude, la passarute allora che è nude, che non ha ricordo al stomaco, ce farai, ce mucitarai tal crud, e lì un recette chiappe, cence schnappe, puori un recette spiordute, cence peli, o me scrudelo, Dio, copaite il freddo, mandate il chialto, alciai signori in alto, che il vieli di un sorelli, se che puoi di la passarute puore, ve un rimiedi, culi e recete insieme, creature, che ue al pateste, chiappe, che criure, alciailu, che ci viesti la tabiele e i armui, delor vieste la puibiele, che puoi di noi e un recete passarute, stialdasi, ristorasi, staronzasi, tambiei, che son viestu, staronze grassi, e boins, sauriz, inglorie, tefresorie. La furbe. Tu vas a toro di gente, e hai tornato. No, hai noi e poi di loi, gli sletteris, regai, che sletteris di mazz, che i cento poi ritrazzi, che i mil matez, che i coi di stupidezzi, hai dottorna. Mi sui tenuto, dici, sparriguard, e un po' in fondo spa sparagnai, un tuart, un alco, un stoc, mariute, ci riguard. Ne ruti ciute d'aur con ton signor, un orloiot di marchi tra le smior, un anellot, 70.000 indotto. Riedo pop. I gimolos dal ciuet. Di picciol lo han vut clamat checo, a diseving. Ma nessun si visava di un sigur. E neanche nessun saveva di un precis quanchi era secchiade la gambe. Cheica son vis cumò, lo han sentuto a clama sempre il ciuet. La gambe di fiar gli avevano adattate a Glemone. Lassù, al conosceva Giolo, un battefiar che inferava i mui. E quanche la gambe dal dito al fat si secchia e si scurtà un tocut e i pendolava cence coman che non era paron di e, si rimpinà sulla carete e il mullo portà a Glemone. Lassù, i batteri in fur la gambe nuove. Un biel tondin di fiar grues come un polear, con miege pladine di siele in som, sempre di fiar, dute foropade, par chioli il pes e anche par respir. Da pit, in maneare un cioc di negrum di agac, vergiat di fiar. La gambe flapide la pleare in asquare e la leare in contune cengle tor dal tondin. Al fasè quattro pas di colaudo e nessun di chi che si era in das dogne al chiatace di. A viodilo in pins non faceva neanche dur. Col culpo ata d'implen sull'assente di fiar al stave di pape. La gambe buine e funzionava giuste di sbacchio per tenere l'equilibrio. Il lavoro all'era una cane, ma che dai bregons nessun l'aveva pensato. Dopo un po', Duc credeva che avessi bregons di Corean come i mux. E invece te era cragne che chelusiva. Aveva masse matezza gli avau. Un altro matezza all'era che li sentassi sentuna chiadrea. I tocchiave d'arar, magari, giuste per giù a un esdrume di partiti sli di passel, quanca al combinave con le chiadree. S'arrivava a comedarsi ben, nanchi una binte non lo muoveva. Li sos feminis nanchi non si provavano a mandarlo a clamà. Andavu dis dos feminis lui, not un col, une prime e une dopo, e un slack di fros. C'è gimui e c'è ugnui. Che ansit quanca a gimular la seconda l'era sentata. Chi che l'assistevin per buine regole all'erin acclamalo, cioè a ninsù che la femmina lo apoà. Proprio cumò, ho finito la partita e poi mie giore dopo lo clamarin in premure, cioè a ninsù che tu andassi un par sorte. All'era di Dilo, di Salumpart così ad ore, ben ben ho finito il raggio e poi dos oris dopo che tornare in acclamalo all'era in chiamò che il paraviu raggios. Cioè, tan in su che tu has due maschi o sei una maschia. Allora il cioetto al portare in cala gambe di fiar, si infrontà con che buine, al fasec ricà tutti le scengli, ma lieva su ticchetà. Una volta in pins, a spudate man e al cancellà tutti i radios, e poi fur di bevi per duc. O voi su di sal, se no che l'hanno ferme. E lui sentiva in abbatti fis fis il cioc di agac, di lung supe pedrade. Oh, Checo, c'è ul di, disse la femmine. Il ciuet quasi quasi si ingropà, par via che l'aveva inclamat Checo. I tirare in fuori Gimulus e allora poi si ingropà dal dut. Al tira giù la scufe e giù chialave, mo un, mo l'altri, che non si muovevi e accragnucciavi. Va di che han già fan, disse. E si inviai giù peschialis, stratigninsi di ciocà, con la giambe di fiare. Disbadascuris. Gargagnà di sore e io ne vilute metin a di dal Friul, tante picciole che sulla carta geografica nasce non si impara. Nessun riclampa al forest, dome lo starie di Florean Baduscli che al spazio è clinto e pulie, e un'eglesiute antigone col puarti de nante puarte. Nasce un eatonie di predi, il plevan al mande su quochidun l'indomenia di un fregenin di messe e feste finite. Ma la glese di Gargagnà è a un muini straordinari, figli squete, un vieli sui settante che la froia della vite palmont e comò al fas d'alminis pecoiarie. E la sabbia di sere al mole ne sglinghignade al tensulle rosari, al vise l'orari de messe e dopo al zonte qualche comment che nessun predi va rescur di fevelà compagni. Anche domani il nesti predisut alvignerà ad innus la mesute con le prediciute e dopo mesdì le solite funzionute. O crot che avevi stabilito par da bon divignindus ogni fieste al manco il parintant. Spietait un marilam come a ribete prima di sciampà e anche voi Maddalena dal Puint che la polente non schiappe di fumo a che storia la varambia già strucchiade. O varesti di usalc ma non stai tevese par mal. Intanto che si preava il rosari mi sono avvisato che se io sentivo era spinto non avevo altri dos, che altri si muoiavano tra i dinci, anche i fasui con che boli in tecite. O altri dos, o sbergelavi come trombetis, con tune male grazie che nanci si avessi svuto di litigare con la Madonna. E se maniera di prea che, prima di tutto, vedi sapere che la Santissima Vergine non è sorda. E poi le dibanti inveregnasse con lei a su di Ave Maris. Si capisce? Così si usa di spartiase, o a ca, con la canae, con gli sbrus, con gli sgialinis, e sa la cor anche con gli schiadreis. E lo sai che non sei dove vuoi altri. Tutti gli femminis di Gargagnà, al par che vebin il soffletto de fari di Bastian dal fiart, al pues dei palmons. Mostris di sunetis, che Dio mal perdoni. E non dove che è di Gargagnà. Ti pensi tu Baltram, in che volta così stassi insieme su Partiarnia, a viodi di un chiari travamente, peciase di Nardin Vergegnas. E tornato in Daur, se si infermasse a mangiare un sedon di minestre in tunnel locando di un paesot che nanci non mi vise più qualche aliere. E là dentro, intorno alle tavole da pide stanzie, e ieri sentati a menare sgramolis tre femmine e un uomo. Una aveva di essi, teande, una mestruta di chies che venivano e vadino ogni dì. Un'altra semeava impiegata in comune. La terza è stata stata chiappata ai Aiars, caliere di Stato. L'om paliere un di chi camminava a tor camions di legnam, un toc di temul che non fevelava troppo. Se avanzava team di tiraflat, tra una bocciata che altre, ammolava fuori un par di blestemis e poi tornava a Masanà. Ma gli tre femminis, non Valtram, che e facevi un savalet di besolis, che nanci sul mercato e verdure a Udin non si insinti compagnis. Massime une, che s'aveva duci petes dal paese e io contava urlant come plevan su un pulpit, quanca si suste coi ballarins de ville di sotto. E remenave il piron palaier come se vesvut di impirai spirs. Si disvidava sulla chiadre come se vesvut il bal di San Vit e tirava due voglons lavras che parevano due sbladax. in manco di mezz'ora così stas di dentro, io e Baltram, o si vignus a sapere tutta la vita e le virtus di questi cristiani, des lor famiglie, de lor parentat, dai lor borghesans, dal sindic, dal predi, dal miedi, dal spiciar, dai comare, dai buteghirs. La mestruta aveva un nuovo dub di 3 anni, calzabbi al giallei sul silabari. La foresta, un frate tanto studiato che non vuole più tenere tutte le scuole, principalmente al sacco tutti i professori. La impiegate e c'è per il raffreddore 2 volte al mese via palunviare e 1 volta per 15 di stato. So sure a Giordo un basarop che la tiene serata in chiesa con la clave. So cugnate non gli buona di vestirsi con un frego di gusto, sebbene che spinto una moneta e a chiodo si pecciosa. So frate la vuole la rusupile che steviarte. Un uomo dal paese che ha girato il mondo con i singers tutta la vita, ha ritornato di Vieri e fa si mantenite chiesa di ricovero. E non lui mangia le minestre, né caffè blanco, né patate insalate. Il predi, la sera de sagre, all'iere pontazzo di un'eale. Il sindaco è un gorobianat che nanche non rispunta con cru salute. Il miedi è le plumate. E tutti questi cronici li sbergelava voltate de bande che si erano altri sdoi. E non stialava di lontano come se avesse feverata pueste per farsi sentire di no. Ma c'è m'importi era mio o a Baltram, dai sei raffreddori, o dai rusupili di sofradi, o dai ramatics di somari, o dal moroso di socusine, o de mangi da spiciare, o dal giappiel de femmina di retor de banche. Perché sentisola di bisogno di raccontare in pubblico tutti gli svuesti snainis di chiase o de corto dal borg, ciussatis di femminis, che Dio mal perdoni. Ben, ho soilato un frego lontano dal ciò con questo discorso. Ho finito e vi do la buona sera. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 86esima trasmissione dedicata agli emigrati, a cura di Ermete Pelizzari. Voci di Otmar Muzzolini, Riedo Puppo e Giuseppe Marchetti.